senza ancora o se non un po' d'anima. Resta ancora, o signori, un po' d'anima, un po' di cuore e di mente? Date, date qua alle macchine voraci che aspettano. Vedrete e sentirete che prodotto di deliziose stupidità ne sapranno cavare. Per la loro fame, nella fretta incalzante di saziarle, che pasto potete estrarre da voi ogni giorno, ogni ora, ogni minuto? E si porta via tutti i pensieri, avanti, avanti, perché non sappia tempo né modo d'avvertire il peso della tristezza, l'avvilimento della vergogna che restano dentro, in fondo. Thank you.